questa vita che io mai vedrò. E da un giorno all'altro l'avrò davanti a me. È un'ispirazione che solo tu mi puoi dare. Ma cosa sarà senza te? Ma ecco perché qualcosa sta accadendo. Dentro di me continuerò a scrivere, che scrivere che non sarai qui, oh mia musa, l'ispirazione che non c'è. Sei come la bolla di sapone, il vento che va via, scapperai via da qui e da me. Musa. Questa vita, sì, ci riuscirò. E allora sì, ti troverò. Sia nel bene che nel male, qualcosa nascerà. Sia realtà o fantasia, qui tu ci sarai. Ma cosa sarà senza te? Forse allora capirò che sarai qui, oh mia musa, l'ispirazione che non c'è. Sei come la bolla di sapone, il vento che va via, scapperai via da qui.